Economia in pagina. Buonasera, questa sera guardiamo un po' le nostre spalle, guardiamo la storia, guardiamo una grande personalità che ha contraddistinto la storia economica e monetaria degli anni del secolo scorso, degli ultimi anni del secolo scorso, soprattutto sul fronte italiano. Parliamo di Paolo Baffi. Paolo Baffi è stato governatore della Banca d'Italia, è stata una personalità, come dicevo, tra le più importanti, che ha lasciato il segno, che ha lasciato il segno con il suo modo di fare politica, ma soprattutto con il suo modo di essere un servitore dello Stato. E proprio servitore dell'interesse pubblico è il titolo che Beniamino Andrea Piccone ha voluto dare al libro che raccoglie le lettere di Paolo Baffi dal 1937 al 1989. Buonasera, Beniamino Andrea Piccone. Buonasera. Beniamino Andrea Piccone è Nextam Partner SGR, è storico dell'economia, insegna sistemi finanziari presso la LIURC, l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Perché si è occupato di Paolo Baffi? È una questione che riguarda la mia famiglia, nel senso che mio padre, quando io avevo 16-17 anni, mi ha invitato a tenere un archivio e quindi a prendere le forbici e ritagliare gli articoli di giornale che più mi interessavano. E allora io mi sono appassionato piano piano al torbido di questo paese, e purtroppo quando uno si appassiona del torbido in questo paese ha tanto materiale, e quindi io mi sono appassionato a Piazza Fontana, alla strage di Bologna, a Ustica, alle stragi di mafia. E negli anni 80 Massimo Riva su Repubblica ricordava la vicenda di questo governatore ingiustamente colpito dalla magistratura nel 1979 e che, per proprio ragioni di interesse pubblico, per non toccare la Banca d'Italia, decise di dimettersi nell'autunno, settembre-ottobre del 1979. Allora io ho continuato a tenere, diciamo, questi ritagli. E anche nel corso della mia vita, anche quando sono andato all'estero, mi ricordo un viaggio a Londra, alla London School of Economics, presi testimonianze e ricordi, che è un libro che la Banca d'Italia ha dedicato a Baffi. Quindi io nel corso della mia vita ho continuato a studiare Baffi, fino a che l'editore Aragno mi ha proposto di scrivere un volume, che ho scritto, il primo volume, Parola di governatore, con Sandro Gerbi. E poi bisogna dire che Baffi è strepitoso. Baffi è veramente un protagonista del Novecento, e per me, che come passione passo diversi giorni in Banca d'Italia, all'archivio storico della Banca d'Italia, c'è materiale ancora per prossimi volumi. Questo è il mio terzo volume, non escludo di scriverne altri, perché l'archivio storico a Banca d'Italia sulla parte Baffi ha 300.000 documenti digitalizzati. Ecco, hai iniziato dicendo che sei interessato del torbido della Repubblica, e Paolo Baffi è interessato del torbido a sua insaputa, perché sono stati dei giudici, che poi è stato dimostrato che senza nessuna prova, ma solo per motivi politici, l'hanno coinvolto, lui e il vice direttore, anzi direttore generale Sarcinelli, in questo scandalo, che poi scandalo non era. Quindi tutta la vita di Baffi, prima e dopo questo scandalo, è stata una vita, diciamo, integerrima, come si può dire. Ma è stata una vita integerrima, veramente all'insegna del servizio pubblico. E successivamente, purtroppo, Baffi, dopo il 79, ha dovuto, diciamo, lasciare l'Italia, andare a Basilea a studiare l'origine e la storia della Banca dei Regolamenti Internazionali. E Giovanni Spadolini, in un intervento alla Bocconi, disse: Baffi va a Basilea come un esule del Risorgimento. E se pensiamo che Baffi ha iniziato la carriera in Banca d'Italia nel 1936, chiamato da Azzolini, perché Azzolini era amico di Giorgio Mortara, professore di statistica alla Bocconi, capiamo che è anche un po' ingiusto parlare di Baffi solo del 79, perché Baffi ha fatto tutta la carriera in Banca d'Italia. Sostanzialmente Azzolini voleva creare un servizio studi dopo che la Banca d'Italia, con la legge bancaria del 36, erano state affidate nuove funzioni, tra cui anche la vigilanza sulle banche, quindi la vigilanza, ma aveva anche bisogno di un servizio studi. Quindi nel 1937, è proprio la prima lettera di questo volume, Azzolini scrive non banalmente a Baffi e gli dice: caro Baffi, va all'ufficio studi alla Bank of England, torna e ne facciamo uno uguale. Per cui lui non è mai stato, fino al 45 con Einaudi, effettivamente direttore del servizio studi, però durante la guerra, diciamo, lui era reggente del servizio, e quindi fin da giovane è andato a Londra a cercare di prendere il meglio della cultura anglosassone e anche della cultura liberale, perché questo è un fatto importante. Baffi andò a Londra nel 31 con una borsa di studio da Bocconi, ci tornò nel 37, e quando andò nel 31 rettore della London School of Economics era William Beveridge, colui che scrisse questo libro bianco su welfare state, che in Italia purtroppo non abbiamo ancora capito, perché poi, come dice Baffi, abbiamo creato un sistema parassitario quasi a una sua crisi terminale, dice Baffi, crisi terminale che poi abbiamo visto, per cui il sistema del welfare italiano spesso aiuta chi non ne ha bisogno invece di aiutare chi ha veramente bisogno. Ecco, Baffi era della scuola liberale, un grande discepolo di Einaudi con cui ha lavorato in Banca d'Italia, una scuola di un liberalismo che comunque era un liberalismo sociale, un liberalismo aperto alla società, non un liberalismo talebano, come si potrebbe dire, a tutti i costi, un liberalismo appunto che guardava alle esigenze della società, e Baffi si poneva anche come esempio in questa società. In molte parti del libro risalta la sua frugalità, la capacità appunto di accontentarsi del necessario. Questa è una delle caratteristiche anche di questa personalità. Ma sicuramente ha detto bene lei Fabi, il fatto che in Italia hanno sempre dominato due altre culture, quindi la cultura cattolica e la cultura comunista, e Baffi cercava di convincere, ci sono diverse lettere anche alla Malfa e con Ugo La Malfa, cercava con diciamo i liberali anche di sinistra di portare un nuovo vento, un vento di proprio che veniva dal liberalismo. Tra l'altro c'è anche appunto in questo volume questo tentativo che racconta con un carteggio molto intenso con Giorgio Napolitano, il tentativo di Baffi di far uscire il Partito Comunista dal ghetto. Naturalmente stiamo parlando degli anni 70, dove c'era il fattore K, il Partito Comunista non poteva sostanzialmente andare a governo, e per cui Baffi cerca di far emergere all'interno degli economisti del Partito Comunista i più liberali, per cui Baffi ha avuto un rapporto straordinario con Luigi Spaventa, e non è un caso che Napolitano si sia commosso sia a Roma alla presentazione del mio libro che a Milano in occasione della commemorazione di Spaventa, di questi due grandi persone che Napolitano ha detto persone per cui io ho avuto il massimo rispetto nella mia vita, cioè Luigi Spaventa e Paolo Baffi. Ecco, in questa prospettiva, guardando proprio l'archivio di Baffi, cercando, scartabellando tra le sue lettere, qual è che ha sorpresa di più? Qual è stata la cosa che dice che bello che ho trovato questa, che più indica in fondo la personalità di questo grande servitore dello Stato? Ma ce ne sono due tra le tante, ripeto, veramente ce ne sono tantissime. Una prima è di Baffi ad Arturo Carlo Iemolo, cui ho dedicato al carteggio tra Baffi e Iemolo un mio volume sempre con Aragno che si intitola Anni del disincanto, del 31 dicembre 69, dove Baffi fa capire come lo Stato sgoverni l'intermediazione finanziaria e quindi si faccia portatore di una spesa pubblica che spesso va dissipata, e ricordiamoci che i soldi pubblici sono i soldi del contribuente. Allora Baffi scrive a Iemolo: se dovessimo immaginare un discorso che lo Stato fa al risparmiatore, che negli anni 70 ricordiamoci che il risparmiatore si vedeva defraudato tra virgolette investendo in titoli di Stato perché i tassi di interesse erano inferiori all'inflazione. E Baffi scrive: se impedito dissuaso in ogni direzione affiderai tu cittadino il tuo peculio a una banca o a un ufficio postale, fidando nel segreto bancario nella possibilità di cogliere chissà quando l'occasione favorevole a un più stabile impiego, io settore pubblico provvederò nella sostanza se non nella forma a dissiparlo, appropriandomene di imperio nel caso del risparmio postale mediante la pressione politica o protestando esigenze di ordine pubblico nel caso del deposito bancario per finanziare i disavanzi correnti dei vari enti in cui mi impersonano. Sono Stato, comuni, regioni, istituti assistenziali, aziende municipalizzate di Stato, identico a me stesso, solo e sempre nella male amministrazione. Ecco, questo è del 1969. In continuità con questo, quando Baffi viene nominato nel 1975 governatore, dopo essere stato dal 60 al 75 direttore generale con il governatorato Carli, riceve una lettera da Altiero Spinelli in cui si complimenta per la nomina a governatore, e Baffi risponde: anche se il gentile ricordo è suo della signora Ursula mi è molto caro, stiamo parlando di Ursula Hirschman, che fu prima moglie di Eugenio Colorni e poi moglie di Altiero Spinelli, quindi con una storia legata anche al manifesto di Ventotene, devo aggiungere che la mia nomina è intervenuta in una situazione nella quale lo stesso nome di governatore è anacronistico, poiché i flussi monetari sono creati per intero per conto del tesoro, al quale non si può dire di no. Qui ci sono dei carteggi molto belli tra Baffi e Ferdinando Ventriglia, che sarebbe potuto diventare governatore, e non immagino come sarebbe stata l'Italia con Ventriglia al posto di Baffi, probabilmente avremmo avuto Sindona ministro del tesoro. Però in questa lettera Baffi dice: basta caro tesoro, perché Ventriglia poi ha fatto il direttore generale del ministro del tesoro Colombo, gli dice: qua io non posso più diciamo finanziare il tesoro in maniera indistinta. Infatti c'è da dire, io da un punto di vista storico ci sto lavorando ancora, sempre sulle carte Baffi, direi che il divorzio famoso tra la Banca d'Italia e il tesoro firmato da Ciampi e Andrea nell'81, si deve in gran parte ricondurre all'opera di Baffi, che ha portato la Banca d'Italia a essere autonoma nella politica monetaria, così che poi Baffi, disarcionato, lasciò a Ciampi l'eredità di firmare questo divorzio, che naturalmente io dico che è stato firmato da Ciampi, ma virtualmente è stato firmato da Paolo Baffi. Con la sua autorevolezza, appunto, della sua capacità di tener conto di tutti gli aspetti sociali, quello che emerge anche nel libro, appunto, non è che lui si interessasse solo di moneta in senso stretto, c'è anche un rapporto, per esempio, con il sindacato. Si era un periodo in cui il sindacato era, diciamo, in prima fila, le problematiche sulla scala mobile, sulla inflazione, sulla lotta all'inflazione erano in prima, e Baffi scendeva in campo scrivendo ai sindacalisti, a Trentini e agli altri. Ma c'è da dire che Baffi era anche molto critico con se stesso e anche con gli altri, per cui in una lettera a Scalfari, che gli propone di andare in televisione a dibattere con Luciano Lama, che disse che il salario è una variabile indipendente, Baffi disse: io non vado in televisione a discutere, diciamo, con persone che hanno delle argomentazioni. Poi apre la parentesi, dice: se possiamo chiamarle tali, quindi di un certo tipo, per cui preferisco non andarci, per evitare di essere assimilato, diciamo, a discussioni che non hanno senso. Ecco, queste argomentazioni reali, concrete di Baffi, questa sua attenzione alla realtà sociale, alla realtà dello Stato, c'è tutta in questo libro, come nei precedenti e negli altri libri che seguiranno su Baffi. Grazie, professor Beniamino Andrea Piccone. Grazie a voi. Abbiamo parlato del libro curato, appunto, da Beniamino Andrea Piccone, Servitore dell'interesse pubblico, lettere di Paolo Baffi, 1937-1989, Nino Aragno, editore. Sono 25 euro per oltre 300 pagine. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Ringraziamo anche Roberta Frisani in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.